se questa luna fosse come un diamante, la ruberesti per me, faresti questo per me. In una stanza c'è una tigre e un serpente, ma c'entreresti per me, faresti questo per me. Dici di amarmi e poi ti perdi nel niente, e litighiamo senza neanche un perché. Ma quando baci le mie labbra e trovi l'anima, nessuna luna è più preziosa per me. Quando mi stringe il nostro cuore all'unisono, nessuna tigre può strapparti da me. Se tu mi ami e se il tuo cuore è sincero, voglio restare solamente con te. Se mi vuoi bene, se mi ami davvero, non devi fare più nient'altro per me. Se io volessi quel tizzone nel fuoco, ti bruceresti per me, faresti questo per me. In questo oceano c'è una perla e uno squalo, ti tufferesti. Faresti questo per me. Dici di amarmi e poi sei freddo e distante, a volte perso a mille miglia da me. Ma quando guardi nei miei occhi e mi sorridi, nessuna fiamma può incendiarmi di più. E se mi annego nel tuo abbraccio dolcissimo, nessuna perla brillerebbe così. Se il nostro amore è forte come io,